Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo ritornati noi di 451 Frammenti Sonori, oggi che è il 17 ottobre, il grande mio compagno di trasmissione sta manipolando in maniera fruttuosa la mia voce, facendola diventare più profonda, quasi da uomo delle caverne di questa umidità, di questa bellissima serata che ricorda i migliori momenti bolognesi tra autunno e inverno. E 451 ovviamente è rappresentato da sempre noi che resistiamo, un po' scalcagnati, un po' ammaccati, ma ci proviamo, anche un po' umidi, ovviamente il buon Max Macchia. E chiaramente Lisio Scarpa. Ecco, siamo rientrati dopo la prima puntata che è stata effettuata esattamente una settimana fa, il 10-10-10, una puntata che avevamo appunto dedicato in apertura della stagione numero 11, no? 11? Stagione 11, sì, stagione 11, tipo le serie. Sì, siamo diventati seriali anche noi. Serie televisiva, stagione 11, bellissima sta cosa, secondo me è inconscia alla fine. E trasmissione che abbiamo, che dici? Sì, è un po' inconscia, se no se ci rendessimo conto di quello che non stiamo diremmo. Facendo, non lo diremmo e non lo faremo. E non lo faremo soprattutto, hai ragione. E trasmissione dedicata, diciamo, al retrofuturo come concetto, che poi comunque se avete voglia di riascoltarla, se l'avete già ascoltata o di ascoltarla per la prima volta, potete come sempre accedere al nostro no blog, che è sempre 451 frammentisonori.noblogs.org, dove ci sarà, anzi c'è già online la trasmissione in MP3, dunque anche sì, ascoltabile. C'è da dire che non si può ancora scaricare, ma stiamo insomma cercando lavorando di provvedere alla faccenda. L'anno scorso si riusciva, ma vedrete che insomma saremo talmente bravi, e soprattutto il nostro grande Albano, Lorenzo Albano risolverà tutta la faccenda, perché è un grande e poi come dire non si sente. Però beh, voi non lo sentite, però è una presenza virtuale anche un po' inquietante a volte. Alle volte. Come comunque, noi. Lo salutiamo come noi. E stasera invece affrontiamo un tema anche questa sera, per certi versi piuttosto legato anche alla fantasia e alla costruzione di immaginario, di dimensioni sonore e anche per certi versi visive, che avevamo già in parte affrontato nella puntata della settimana scorsa attraverso il concetto di retrofuturo, ed è una puntata dedicata. Sì, una sorta di invenzione di 451 frammenti sonori. Se la scorsa volta il retrofuturo è stato trasmesso attraverso delle invenzioni o reinvenzioni più che altro di autori che provengono soprattutto dagli Stati Uniti d'America tra gli anni zero e i nostri giorni, beh, questa sera 451 se l'inventa a pie pari, una sorta di colonna sonora, di palinsesto musicale radio televisivo, anche cercando insomma di in questo senso il giochino retrofuturista, speriamo che funzioni, cercando un po' di tornare a quello che era il vecchio pirataggio radio, e quindi le radio libere che nascevano, ma forse anche qualche piccola televisione. Bravo, degli anni 70, anche qualcosa c'era, fatto, c'era anche qualcosa di radicale dentro le televisioni, non moltissimo, forse nella città di Firenze ci fu un episodio di radio televisione piuttosto alternativa, se non addirittura antagonista, chiaramente chiusero anche a Milano dopo poco, sì, qualcosina altro. Tra l'altro, vabbè, consigliamo anche magari lettura di un libro, si chiama Il Mucchio Selvaggio, che attenzione, ci sono due libri che sono usciti qualche anno fa che si chiamano Il Mucchio Selvaggio, è quello che tratta di televisioni e di etere, appunto, di pirataggio, quello che sono state anche poi le televisioni private, con annesse anche chiaramente appunto le radio. Tante volte c'erano proprio le radio televisioni, appunto, non soltanto la possibilità di trasmettere televisivamente, ma anche quella più semplice, tra virgolette, stiamo sempre, come dire, resuscitando periodi eroici della radiotrasmissioni, radiotele-trasmissioni, quindi anche la radiofonia non era facile. D'altronde poi Bologna ha anche questa particolarità, che è uno degli esperimenti più illuminanti, e tra l'altro chissà se magari faremo uscire dal cilindro di 451 una vecchia trasmissione proprio su Radio Alice, che dedichiamo a Radio Alice, certo. Al 77 bolognese, magari sarebbe anche il caso, chissà, magari comparirà anche sul mio blog. Sì, secondo me è fattibilissimo, infatti. Un'idea così estemporanea, come d'altronde sarà estemporanea questo momento appunto di reinvenzione, di rimando, se vogliamo, per tanti aspetti, ma anche di astrazione, di paradosso temporale e non solo, anche spaziale, visto che la radio la stiamo facendo adesso, il 2010, qua da Radio Città del Campo, ma in realtà appunto stiamo cercando una sorta di allunaggio, una sorta di approdo fantastico dentro appunto una invenzione che parte da questo momento con Michael Hoening, Departure from the Northern Wasteland, uno dei raggi cosmici che ha attraversato la fine degli anni 70 in quel suono post-cosmico che si stava trasformando in una faccenda anche piuttosto articolata. Michael Hoening così ci suscitava, come poi buona parte dei progetti che metteremo questa sera, appunto questa immaginazione, questa possibilità appunto di reinventare una sorta di radio, televisione, e quindi di un palinsesto che parte proprio in questo momento. Michael Hoening. Thank you. come se fossimo dentro una sorta di pianeta inventato televisivamente o se volete anche radiofonicamente basta. Tanto Expanded Band sono i protagonisti di questo viaggio dentro appunto musiche che si cibano di strane sigle, strane così entrate, incipit probabilmente per programmi che hanno a che fare con qualche informazione però appunto magari non terrestre, o se terrestre particolarmente esotica, come d'altronde anche l'elettronica dei Tonto Expanding It Band ricordavano, d'altronde due piccoli grandi geni delle musiche elettroniche post psichedeliche della fine degli anni 60, poi tra l'altro anche protagonisti di alcune parti elettroniche dentro lo Stevie Wonder che passava dal soul anche abbastanza dolce del primo periodo, quando era ancora insomma un bimbo, a riflessioni musicali ben di più insomma ampio respiro sicuramente, i primi dischi insomma degli anni 70 che vedevano appunto i due pazzoidi Tontos dentro appunto queste sorte appunto di musicalità non più soltanto nere per quanto riguarda nell'esempio insomma che stiamo facendo Wonder, ma anche appunto fantascientifiche come tanta della loro musica ricorda, e appunto ci piaceva come dire Michael Honegg, che è un proseguitore di quella generazione freak cosmica con Agitation Free e poi appunto con il suo splendido disco da solo del 1978, fare un passaggio indietro per ritrovare una sorta di linearità impossibile dentro una trasmissione che è probabilmente appunto tale, e quindi Tonto Expanding espandono, lo dice già il nome stesso, questa visione o questa televisione dentro appunto questa possibilità di reinvenzione o di rimando, se volete. Eh sì, immaginandoci una radiotelevisione che potremmo anche essere noi, ovviamente con uno schermo, una telecamera e una trasmissione, che ne so, via etere, via cavo. Tra l'altro questo ricorda anche uno studio primi anni 80, diciamo. Sì, beh, il nostro studio, sì, lo studio di Radio Città del Capo ricorda molto effettivamente uno studio anni 80. C'erano ancora delle televisioni che provavano a fare qualcosa, oddio, anni 80 ormai la frutta, però c'era ancora qualcosina i primi anni 80, sì. Potevamo ancora sperare, ma pensando comunque a una radiotelevisione inventata, appunto colonna sonora, abbiamo pensato, oltre ai due che abbiamo già sentito orora, Michael Hennig e Tonto Expandi, un'altra formazione che può ricordare con la sua costruzione molto vicina anche a certe atmosfere che abbiamo affrontato la scorsa settimana col concetto di retrofuturo, questa cosmica che però vive questa dimensione, questi immaginari anche anni 80 malati, le famose palme che la scorsa settimana ricordavamo, i vari album che vengono stilizzate con una prima computer grafica oppure addirittura rappresentate quasi con una fotografia dal vero. Questa formazione utilizza le stesse sgranatissime, utilizza la stessa tecnica appunto in questa ridimensione temporale e spaziale che attraverso le loro musiche che riecheggiano una certa cosmica portata anche forse all'eccesso, molto vicina anche con certi suoni e certe aperture a una non grande amata da noi New Age, ma è sempre molto al limite, però insomma ci vediamo, sì. Poi alla fine ma nonostante insomma nonostante i nostri sforzi tutto, ci troviamo a confrontarci in questi giorni con questa cosa, però ovviamente questa reinvenzione, forse una New Age che non c'è mai stata, secondo me è proprio questa, una New Age che non c'è mai stata, ed è molto interessante il modo in cui molte formazioni, molti progetti che abbiamo già ascoltato una settimana fa e anche stasera in parte attraverseremo hanno questa capacità di arrivare fino al limite senza andare oltre, però, perché a quel punto il salto è veramente nel vuoto. E una di queste formazioni sono appunto i manual, formazione non particolarmente conosciuta ma importante, perché sono già 10 anni che stanno producendo lavori, e l'ultimo lavoro che andremo appunto ad ascoltare di questa formazione danese, che in realtà è un unico personaggio, Jonas Mank, che ha comunque degli ascolti, dei collegamenti con formazioni che noi abbiamo amato molto degli anni, soprattutto anni 90, un'elettronica aperta con anche influssi ambientali, con dei rimandi appunto tra i 70 e gli 80. Il disco in questione è appena uscito nel 2010 e si tratta di Drowning in Light per la Daria Records, e ci andiamo ad ascoltare dunque un brano che vi farà, secondo noi, almeno speriamo, viaggiare attraverso appunto una colonna sonora di un ipotetico, che ne so, documentario, trasmissione di approfondimento, una delle immaginazioni, una delle ipotesi che noi abbiamo costruito per una radiotelevisione inventata. E poi, quando rientreremo, c'è una chicchetta da raccontarti sulla radiotelevisione inventata. Ottimo. Ti va? Come no? A posto. trasmissioni che riprendono una sorta appunto di errore glitch e da documentari che si vogliono sfalsati e si vogliono appunto tarati apposta appunto per una invenzione che probabilmente funziona male, come d'altronde. Ma diciamola così. Potremmo dire anche diversamente, in effetti, se potremmo dire di tutte. Ma sì, qua di tutte, ma soprattutto interessante il fatto che è un po' anni Ottanta in questo senso. Qualche molto, lettore molto. Ci dica che è un po' anni Ottanta. D'altronde, sai, la radio mantiene questo spirito anche artigianale. Assolutamente, proprio nel senso che proprio l'ha fatto Geppetto. E in effetti un po' di legno, tutta sì. La faccenda, ma l'errore poi, se consideriamo che poi uno potrebbe anche dire che è una gran paraculata, forse è anche vero, però qua ci vuole Oval e Scinorio hanno lavorato sull'errore e poi sull'errore hanno creato delle sorte di sigle, di musiche e colonne sonore, forse per film immaginari, ma più che altro per dei video che non sono neanche più televisivi, ma sono delle sorte di interazioni che si porta dietro la musica stessa e di conseguenza creano insomma dei panorami digitali per quanto riguarda sia Anno che Oval, che però appunto hanno tutta quell'immagine dell'errore anche degli anni 70, dell'analogico, che prende forma nuovamente dentro digitale e sembra che appunto per un momento storico sicuramente è stato così, abbia dato una grossa insomma creatività a tutte le nuove musiche elettroniche. D'altronde poi Oval sono stati grandi maestri in questo senso, anche Yoshiyori Ohanno, che abbiamo amato molto nelle sue varie performance anche come Multiphonic Ensemble, disco veramente eccezionale per immaginazione, non soltanto appunto musicale, ma appunto anche quasi visiva, come tante volte ha portato insomma Marcus Pop di Oval, una sorta di immagine nuova, il suo glitch. Sicuramente anche per Yoshinoro Anno questo vale come discorso. Infatti questo album che adesso andiamo a presentare si basa anche su questo concetto connesso agli errori, come d'altronde nella collaborazione con gli Oval. L'album in questione è April, uscito per la Sub Rosa nel 2001, un lavoro molto molto bello che vede l'incontro di questi due grandi musicisti, e appunto all'interno anche di questi immaginari radiotelevisivi possono essere sicuramente inserite perfettamente in una colonna sonora quasi strutturale di una radiotelevisione pirata, disturbatrice, che si inserisce e rompe dei flussi che potrebbero essere tipici anche di certe colonne sonore, di programmi, di costruzioni comunque legate appunto a una radiotelevisione. Yoshiro Anno con Oval e poi appunto anche questa piccola chicca legata alla televisione pirata, no? La televisione, la radiotelevisione, le radio pirata indiscutibilmente hanno pollulato e hanno avuto un grosso fermento negli anni 70 e anche nei primi anni 80, ma ancora adesso qualcuno forse si può infilare come radio pirata. Sì, ci sono delle sorte di pirataggio istantaneo, ma soprattutto pirataggio per quello che può significare via internet. Beh sì, effettivamente adesso è più il territorio internet, anche perché ci sono le radio. C'è pur di una pirateria in un mare che è probabilmente un mare magnum che non, insomma, si perde poi anche lo stesso pirataggio, cosa si attacca? Infatti. Nel momento in cui appunto siamo dispersi più che gli approdi, appunto ci sono le derive. Infatti diventa anche assurdo lo stesso concetto all'interno di questo nuovo universo di comunicazione, questo grande contenitore aperto che appunto il serbatoio virtuale e internet in particolar modo. Beh, adesso a questo punto andiamoci a sentire la chicca, andremo a tirar fuori nella seconda parte, anche perché non c'è il giusto incipit, e andiamoci a sentire dunque la prima traccia di questo album April di Yoshiro Anno, con la collaborazione non solo di di Oval, ma anche di altri personaggi importanti che abbiamo visto passare attraverso 451, come Christopher Charles. Ma in particolare modo adesso ci andiamo a sentire proprio la traccia di apertura On Off di Yoshihiro Anno. Thank you. Thank you.